selva, selva, lianas e trefilha, selva, selva, ragina e ragis, selva, selva, erbaccia e mangola, selva, selva, ciareja e fleton. Io son la guardia da mesquot, io son la zappa da mesia, io son la guardia dall'acquario. Io son regina in cugina, son der giadra da mesfax. Io son regina da tre set. E na gin comanda mai, na gin non manda io. E na gin comanda mai, na gin non manda io. Na gin. Bella, bella, le stalpe sera tu. Belva bella, filums e scilats, belva bella, gli maies e salit, belva bella, pecasses e tullans. Io son la signora da mestissis, son il maestro da mesiris, io son la signora da mies lunes, io son la dama da crudels, son l'eroina da mesres. Io son la dama da passion. E na gin comanda mai, na gin non manda io. E na gin comanda mai, na gin non manda io. Na gin. Pum pum pum pum pum pum pum pum. Parara parara. Selva, pipettes e di clars, selva, selva, palutta e ciazzetta, selva, selva, il cialige sta d'aera, selva, selva, furcetta e ciadura.